le silo di lo stoffo Ground ga maschi che zabba corona Bizza tabiso a tisse motova Dangi timer holo di bo Oh Gidi bo li tutu dunu seza ola le ol Ula country please rama posa Lockdown upeci sa di posa Hoya babelo tse thata kope makala cheche ke tswere cheke ke tswere respect a ke poloti ke tswere cheke tletse mo cheke wena o ka tsara ke boramati ne ke le crack no ke shaba number mwana ke snack wa shadi number ke spook police le di lost to four ground ga mask ke tsaba corona bitsa tabisa tse mo to ba tang ke timer ho le di bo ke spook police le di lost to four ground ga mask ke tsaba corona bitsa tabisa tse mo Over than big time, our whole new world. Sabba corona, pizza tabiso, a tisse motova, tanki timer, holo di bo. Oh, kiddy bo, li tutu, dunu seza ola le ol. Ula country, please rama posa. Lockdown, peti sa di pos. Oh, kiddy bo, li tutu, dunu seza ola le ol. Ula country, please rama posa. Lockdown, peti sa di pos. Hoya babelo tse thata kope makala cheche ke tswere cheke ke tswere respect a ke poloti ke tswere cheke tletse mo cheke wena o ka tshara ke boramati ne ke le crack no ke shaba number mwana o ke snack wa shadi number ke spook police le di lost to four ground ga maski ke tsaba corona bitsa tabisa tse mo to ba tang ke timer ho le di go ke spook police le di lost to four